116. Crostini di milza. Milza di castrato, grammi 120. Acciughe numero 2. Levate la pelle alla milza e cuocetela con burro e sugo di carne. In mancanza di questo, servitevi di un battutino di poca cipolla, olio, burro, sale, pepe e spezie per condimento. Tritate poi ben fine questi ingredienti insieme con le acciughe. Rimetteteli al fuoco nell'intinto che resta, unendovi un cucchiaino di pan grattato per legarli insieme e senza farli più bollire, spalmate con essi delle fettine di pane, fatte prima asciugare al fuoco senza arrostire ed unte col burro. 117. Crostini fioriti. Questi crostini sono di facile fattura, belli a vedersi e discretamente buoni. Tagliate della midolla di pane finissimo alla grossezza di un centimetro, dandole la forma di mandorle o quadretti. Spalmateli di burro fresco e distendeteci sopra 2 o 3 foglie di prezzemolo, contornandole con filetti di acciuga in forma di biscioline.